Vlad, vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 1.2. Consumo personale e spaccio di sostanze stupefacenti. Di Valentina Muglia. La legge Iervolino Vassalli del 1990 rappresenta oggi la base normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, una legge che è tornata ad avere effetti in seguito alla nota sentenza della Corte Costituzionale del 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della legge Fini-Giovanardi. Quest'ultima aveva eliminato nel 2006 ogni distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, ai fini dello spaccio ed inasprito le pene per alcune condotte, alimentando ingiustizie tramite proibizionismo e repressione e contribuendo al sovraffollamento carcerario nel nostro paese. Come è noto, anche all'indomani dell'abrogazione della Fini-Giovanardi, oggetto di repressione è ancora il semplice consumo personale di sostanze e la figura del consumatore, anche occasionale, è spesso assimilata, tout court, a quella del soggetto tossicodipendente, un'espressione che porta con sé un forte stigma sociale di disvalore. Le politiche sulla droga sono strettamente connesse ad una precisa opzione di politica penale penitenziaria, non a caso ad entrare in carcere sono spesso proprio persone con problemi di dipendenza, singoli individui dalle biografie complesse che divengono il vero bersaglio del proibizionismo. Riprova ne è la persistente disponibilità reale delle sostanze illecite e il potere delle grandi organizzazioni criminali che gestiscono su scala nazionale ed internazionale la loro produzione ed immissione nel mercato, nonostante la morsa repressiva e la linea dura portata avanti dai governi degli ultimi anni. Il carcere assume allora la funzione di essere la discarica sociale delle politiche di turno, uno strumento attraverso il quale criminalizzare, marginalizzare e controllare i tossici senza determinare alcuna contrazione del fenomeno dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti, essendo totalmente insufficienti nel nostro paese le politiche, auspicabili, di riduzione del danno e di reale informazione sull'utilizzo consapevole delle sostanze. In merito all'impatto detentivo del proibizionismo, basta analizzare alcuni dati statistici al fine di comprenderne gli effetti distorsivi prodotti negli ultimi anni. I soggetti con problemi di dipendenza rappresentano in modo stabile il 25% circa del totale della popolazione detenuta. Condannati a scontare la pena in carcere per reati connessi alla violazione della legge sulle sostanze stupefacenti e per piccoli reati contro il patrimonio, a dimostrazione del nesso tra il consumo, la marginalizzazione sociale e la commissione di illeciti per procurarsi la sostanza. Non a caso, in seguito all'introduzione nel nostro paese della legge Fini-Giovanardi, il numero di detenuti in carcere è aumentato. Nel 2009 più di 4 persone su 10 erano infatti detenute per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, 41,6% del totale dei detenuti. All'abrogazione della legge Fini-Giovanardi è seguito, non a caso, un calo del numero dei detenuti, divenendo il 35,3% nel 2014, anno dell'abrogazione, il 33,9% nel 2015 e il 34,2% nel 2016. Il dato del 2016, tradotto in numeri, ci dice che più di 18.000 persone, di cui circa 7.000 stranieri, erano detenute nelle nostre carceri per reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta però di numeri ancora alti. Ad esempio, l'Italia nel 2015 è stata il paese con il più alto numero di detenuti per reati in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti dei 47 paesi aderenti al Consiglio d'Europa. L'attuale normativa si presenta quindi complessa, stratificata e poco chiara, anche a causa della reviviscenza della Iervolino Vassalli. Per questo, di seguito, proviamo a dare una ricostruzione del quadro normativo attuale per favorire la diffusione della conoscenza dei propri diritti, soprattutto in caso di consumo personale e di controllo da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo è di ridurre il rischio di subire abusi in situazioni connesse alla detenzione di sostanze, come spesso purtroppo si verifica nella prassi. Sostanze stupefacenti. Con l'espressione sostanze stupefacenti psicoattive o psicotrope, la legge indica un elenco di sostanze farmacologicamente attive, cioè ricche di principi attivi considerati capaci di alterare l'attività mentale del soggetto che le assume, con potenziale creazione di dipendenza, tolleranza o assuefazione. La legge oggi, come noto, collega diverse conseguenze allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Ecco quindi che viene di nuovo in rilievo, ai fini della pena, la differenza fra droghe leggere e droghe pesanti. Sono ricomprese nella prima categoria, per lo più, quelle prodotte da sostanze naturali, ad esempio la cannabis e i suoi sottoprodotti marijuana ed hashish. Tra le seconde rientrano ad esempio l'eroina e la cocaina. L'elenco completo delle sostanze e la loro classificazione in leggere e pesanti, ai fini della legge, è contenuto nelle tabelle ministeriali. Detenzione di sostanze stupefacenti. Si parla spesso di detenzione di sostanze stupefacenti, con questa espressione la legge si riferisce ad una qualsiasi relazione fra un soggetto e una sostanza stupefacente, ad esempio il semplice possesso di un quantitativo di sostanza nella tasca dei pantaloni o del cappotto o nello zaino. Detenere della sostanza stupefacente di per sé è sempre una condotta illecita, solo che nel caso del consumo personale non comporta nessuna sanzione penale, mentre nel caso dello spaccio sì, poiché è reato. A fare la differenza è quindi la finalità, cioè lo scopo della detenzione, se è per il proprio consumo o per la vendita ad altri. Detenzione per consumo personale. La legge punisce con una sanzione amministrativa chiunque per farne uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope. Oltre alla detenzione, infatti, anche altre condotte possono essere considerate illecito amministrativo: l'acquisto, il ricevere da altri, l'importazione e l'esportazione, purché il fine sia solo quello del consumo personale. La legge non definisce concretamente il concetto di consumo personale, ma con questa espressione si riferisce chiaramente all'uso o consumo individuale della sostanza, escludendo qualsiasi tipo di passaggio o diffusione ad altre persone. Per distinguere il consumo personale da altre situazioni, la legge detta alcuni criteri generali ai fini dell'accertamento della destinazione esclusivamente ad uso personale della sostanza, si tiene conto delle seguenti circostanze. La quantità della sostanza posseduta, in riferimento al limite massimo di principio attivo tollerato, è indicato dalle tabelle del Ministero della Salute. Le modalità con cui si presenta la sostanza, in riferimento al confezionamento e al peso lordo complessivo. Altre circostanze dell'azione da cui si può desumere l'utilizzo personale, ad esempio lo stato di tossicodipendenza o la presenza di strumenti utilizzati solitamente per il consumo, come cartine e grinder nel caso del consumo di cannabis. Consumo personale, depenalizzato ad illecito amministrativo. La detenzione di sostanze per consumo personale, in quanto depenalizzato, non costituisce reato, ma è solo un illecito amministrativo. Comporta una sanzione amministrativa, cioè la sospensione di alcuni documenti o l'impossibilità di conseguirli per un certo periodo di tempo. La patente, il porto d'armi, il passaporto, il permesso di soggiorno, solo per gli stranieri, per un periodo di tempo che va da 1 mese a 3 mesi, nel caso di droghe leggere, da 2 mesi a 1 anno per quelle pesanti. Comporta anche la segnalazione al servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, SERD, per la definizione di un programma di recupero personalizzato. Procedimento amministrativo. Il possesso di sostanze stupefacenti per consumo personale comporta l'apertura di un procedimento amministrativo su segnalazione delle forze dell'ordine al prefetto della città di residenza del consumatore. La prefettura convoca il consumatore per un colloquio. Nel caso di persone minore di età, sono convocati anche i genitori. Il colloquio consiste in un incontro con un assistente sociale finalizzato a conoscere l'entità della dipendenza del consumatore ed è informativo riguardo le conseguenze legali riguardo all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Presentarsi al colloquio non è obbligatorio, ma è consigliato, in quanto non presentarsi comporta sempre la chiusura del procedimento amministrativo con l'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso invece sia la prima segnalazione a carico del consumatore, è possibile che il procedimento amministrativo, dopo il colloquio, si concluda solo con un invito formale a non fare più utilizzo di sostanze stupefacenti, senza l'irrogazione della sanzione amministrativa, solo per i casi meno gravi. Durante il procedimento si ha diritto a prendere visione e a chiedere copie degli atti relativi alla propria segnalazione. E sebbene per tutta la durata di questo procedimento non sia richiesta dalla legge l'assistenza legale, questa è comunque consigliata. La legge prevede anche la possibilità di opporsi entro tempi brevi, 10 giorni, all'ordinanza del prefetto di apertura del procedimento amministrativo, dinanzi al giudice di pace o al tribunale dei minori in caso di persone di minore età. Così come è possibile opporsi al decreto del prefetto con cui viene irrogata la sanzione amministrativa a conclusione del procedimento, sempre dinanzi al giudice di pace o al tribunale dei minori in caso di persona minore di età. È bene sapere che i dati relativi a questo procedimento non risulteranno su nessun documento né sul proprio certificato penale, ma rimarranno nelle banche dati della prefettura e possono quindi essere visionate dalle forze dell'ordine in caso di successivi controlli. Segnalazione al SERD. L'apertura del procedimento amministrativo comporta solitamente la segnalazione da parte del prefetto del consumatore al servizio pubblico per la cura delle dipendenze da sostanze stupefacenti, con l'invito a intraprendere un percorso di recupero. Tale programma terapeutico viene predisposto insieme al consumatore dopo gli accertamenti medici necessari ed è formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e studio e delle condizioni di vita familiare e sociale del consumatore. Sebbene non sia obbligatorio seguire il percorso terapeutico proposto, nel senso che nessun consumatore può essere costretto contro la sua volontà ad iniziare, proseguire e portare a termine il programma, la legge lo richiede come presupposto per la revoca delle sanzioni amministrative. A prescindere dalle segnalazioni, chiunque faccia uso di sostanze può chiedere volontariamente al Servizio per la cura delle dipendenze di essere aiutato ed ha diritto all'anonimato se lo richiede espressamente, senza rischiare di subire alcuna segnalazione all'autorità, in quanto nelle strutture sanitarie viene tutelato solo il diritto alla salute di chi chiede aiuto. Segnalazione alla Prefettura per consumo personale, dati relativi al 2016. La maggior parte delle segnalazioni è per consumo di cannabis, 80,4% del totale, e solo a seguire cocaina, 12,7%, oppioidi, 5,7%, altro, 1,3%. La maggior parte dei segnalati è di genere maschile e ha meno di 30 anni, circa il 70%, poco più dell'11% dei casi riguarda minori di età. Le segnalazioni aumentano nelle fasce di età tra i 20 e i 24 anni. Nell'anno 2016 più del 35% dei procedimenti amministrativi si sono chiusi solo con un formale invito a non fare più uso delle sostanze stupefacenti, senza l'irrogazione della sanzione amministrativa, mentre un'alta percentuale dei procedimenti conclusi con l'irrogazione della sanzione amministrativa è avvenuta in assenza di colloquio, a causa della mancata presentazione della persona interessata. Consumo di gruppo. Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti non è considerato reato, ma è considerato un illecito amministrativo, proprio come il consumo personale. La legge in realtà depenalizza solo il consumo personale, non quello di gruppo. Si tratta infatti di un'ipotesi creata negli anni dalla giurisprudenza. È considerato consumo di gruppo sia l'acquisto della sostanza in gruppo, cioè da parte di più persone insieme con lo scopo di consumarla in gruppo in un momento successivo, sia l'acquisto della sostanza da parte di uno solo dei membri del gruppo, su mandato del gruppo, sempre con lo scopo di consumarla collettivamente. Può capitare che chi acquista la sostanza per il gruppo venga fermato per un controllo da parte delle forze dell'ordine e sia trovato in possesso di un quantitativo di sostanza maggiore di quella tollerata, proprio a causa del fatto che la sostanza che ha con sé è destinata al consumo del gruppo. In questo caso si aprirà molto probabilmente un procedimento penale a carico del consumatore, che dovrà dare la prova del consumo di gruppo. Per dimostrare il consumo di gruppo è necessario dimostrare che chi ha comprato la sostanza è uno dei consumatori del gruppo e che ha agito per sé e per gli altri consumatori, indicando chi sono questi ultimi. Non è valido infatti un generico riferimento al gruppo di amici. È necessario cioè che tutti gli appartenenti al gruppo si conoscano fra loro da prima e che abbiano agito sulla base di un accordo avvenuto prima dell'acquisto, ad esempio con la divisione della spesa economica e con lo scopo di consumare tutti insieme la sostanza nel luogo e nei tempi concordati. Abbandono di siringhe. La legge punisce con una sanzione amministrativa chi getta o abbandona siringhe o altri strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati o di uso comune, mettendo quindi a rischio l'incolumità degli altri. La sanzione consiste nel pagamento di una somma dai 51 ai 516 euro. Detenzione per spaccio. Le attività vietate dalla legge sono molte e variegate. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque detiene, fuori dalle ipotesi previste per il consumo personale delle sostanze stupefacenti, può essere punito penalmente. Ad essere illegale è quindi ogni tipo di trasferimento, passaggio o diffusione di uno stupefacente da un soggetto ad un altro soggetto, anche se lo scambio può avvenire gratuitamente e anche se riguarda una dose minima, nonché le attività rivolte alla coltivazione e alla produzione delle sostanze. In riferimento alla detenzione, è punibile penalmente chiunque detenga sostanze con lo scopo di cederle ad altri, ma generalmente il semplice possesso di sostanze stupefacenti non dice nulla riguardo alla destinazione della sostanza. Infatti, anche in questo caso vengono valutati anche altri elementi, considerati indizi o meno dell'attività di spaccio, ad esempio quantità e qualità della sostanza posseduta e altre circostanze del caso, per la valutazione degli indizi, vedere sotto. Queste attività costituiscono ciascuna un reato e comportano l'arresto nei casi di flagranza, il giudizio direttissimo e la conseguente condanna alla reclusione e alla multa. Chiaramente la pena varia a seconda della qualità e della quantità della sostanza stupefacente, della gravità del fatto e delle circostanze dello stesso. Elementi per la valutazione dell'accusa di spaccio in giudizio. Il giudice, sulla base degli indizi raccolti, prende in considerazione degli elementi decisivi per il giudizio, che riguardano quantità e qualità della sostanza posseduta. In riferimento alla quantità maggiore e il peso lordo di sostanza posseduta, maggiore è la presunzione che la sostanza fosse destinata alla vendita e non al consumo personale. Stesso discorso per la qualità in rapporto alla purezza della sostanza, cioè alla concentrazione di principio attivo. Sostanze pure sono ritenute destinate allo spaccio una volta tagliate. Potrà essere valutato come chiaro indice di spaccio il possesso di sostanze diverse, esempio hashish, eroina e cocaina, o di sostanze confezionate in dosi di diversa pesatura, ad esempio 6 bustine di cellophane con 6 diverse pesature di hashish. La presenza o meno di strumenti che vengono utilizzati solitamente per pesare e confezionare le sostanze destinate allo spaccio. Si considerano quei strumenti e attrezzature solitamente utilizzati per la pesatura e il confezionamento, tipo il bilancino di precisione, cellophane, bustine e il possesso di sostanze da taglio. La disponibilità economica, reddito personale o del nucleo familiare. Sarà valutata inoltre la disponibilità economica in relazione sia alla quantità e alla qualità di sostanza posseduta, per esempio un disoccupato che possiede della droga pura e quindi costosa, nonché all'eventuale possesso di denaro contante, magari di piccolo taglio e di provenienza poco chiara. Altre circostanze del caso, per esempio lo stato di tossicodipendenza. Pene per spaccio. Da 8 a 20 anni per lo spaccio di droghe pesanti, più una multa di 25.822 euro fino a 258.228 euro. Da 2 a 6 anni per lo spaccio di droghe leggere, più una multa da 5.164 euro a 77.468 euro. Da 6 mesi fino a 4 anni per spaccio di lieve entità, più una multa da 1.032 euro a 10.329 euro, senza distinzioni fra spaccio di droghe pesanti o leggere. La legge prevede inoltre delle aggravanti che comportano un aumento della pena, di cui sopra, nel caso di spaccio di quantità molto grandi di sostanze, nel caso il fatto coinvolga tre o più persone insieme, nel caso di presenza anche di armi, nel caso in cui coinvolga una persona minore di età, nel caso in cui lo spaccio avvenga vicino a una scuola, una caserma, un carcere, una comunità giovanile, un ospedale, strutture per la cura delle dipendenze, o se l'offerta della sostanza è finalizzata a ottenere prestazioni sessuali da una persona tossicodipendente. In aggiunta possono essere applicate anche le sanzioni amministrative di divieto di espatrio e di ritiro della patente di guida per un periodo massimo di 3 anni. Se il condannato è straniero, è prevista anche la possibilità che venga espulso dallo Stato italiano non appena abbia espiato la pena della reclusione in carcere. La pena può essere diminuita in caso di collaborazione con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria. Spaccio di lieve entità. La detenzione di sostanza stupefacente può essere considerata finalizzata allo spaccio di lieve entità, quando rispetto ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione, alla qualità e quantità delle sostanze possedute risulta evidente che l'attività di spaccio fosse di dimensioni ridotte, con la produzione di un giro minimo di guadagni e con una diffusione minima del prodotto nel mercato delle sostanze. La legge in questo caso non richiede nemmeno che lo spaccio sia occasionale, cioè consumato una sola volta, e ai fini della pena non fa differenza il tipo di sostanza venduta. In queste ipotesi, infatti, non viene prevista nessuna distinzione fra spaccio di droghe leggere e di droghe pesanti. La pena prevista è in ogni caso dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione e una multa da 1.032 euro a 10.329 euro. Agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti. La legge punisce chiunque agevoli l'utilizzo di sostanze stupefacenti di altre persone, adibendo al luogo abituale di consumo di sostanze, ad esempio il proprio pub, il proprio appartamento o la propria automobile. Con il termine abituale, la legge intende che questa attività debba avvenire con una certa frequenza, ad esempio ogni sabato sera. La pena è della reclusione dai 3 ai 10 anni e della multa da 2.582 euro a 10.329 euro in caso di utilizzo di droghe pesanti, e della reclusione da 1 a 4 anni e la multa dai 2.582 euro ai 25.000 euro in caso di droghe leggere, ed è aumentata in caso di presenza fra i consumatori di persone minori di età. Nel caso si tratta di locali pubblici, comporta inoltre la chiusura temporanea dell'attività commerciale per un periodo di tempo dai 2 ai 5 anni. Per essere considerata agevolazione, non è necessario che il proprietario del luogo adibito a ritrovo abituale percepisca in cambio del denaro. La coltivazione domestica di cannabis. La legge non considera reato il consumo personale di cannabis, ma considera reato la coltivazione della pianta di canapa. La coltivazione, infatti, così come la produzione di tutte le sostanze stupefacenti, è vietata dalla legge ed è punita con le stesse pene previste per lo spaccio. In teoria, chiunque pianti della canapa, anche se in un vaso piccolo nel balcone di casa, commette un reato. Tuttavia, non sempre si viene puniti per la coltivazione domestica. Recenti pronunce giurisprudenziali hanno infatti dettato dei principi fondamentali sul tema, in particolare sul concetto di inoffensività in concreto della condotta di coltivazione. Ciò vuol dire che la coltivazione rimane comunque un'attività vietata dalla legge, ma è possibile non subire la condanna penale quando il giudice, in base alle circostanze del caso concreto, ritenga provato l'uso esclusivamente personale e la minima entità della coltivazione, e che la produzione abbia le caratteristiche fisiche tali da poter escludere la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della coltivazione. Affinché ciò accada, è necessario che la coltivazione sia davvero minima, certamente non una serra domestica. Solo così potrà essere ritenuta inoffensiva per la salute pubblica. Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine durante un controllo in strada possono sottoporre ad un test antidroga il conducente del veicolo, dal momento che è vietato guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In ogni caso, questi accertamenti devono avvenire nel rispetto dell'integrità fisica e della riservatezza personale e sono svolti sul posto, tramite le dotazioni della volante. Stesso funzionamento dell'alcol test, ma tramite kit che rilevano le sostanze. In caso di esito positivo al test antidroga, la pena prevista è dell'arresto da 6 mesi a un anno ed una sanzione economica dai 1.500 euro a 6.000 euro, la confisca dell'automobile se è di proprietà del conducente e il raddoppio delle pene in caso di incidenti stradali. Comporta chiaramente la sospensione della patente per 1 o 2 anni, a seconda dei casi. L'eventuale rifiuto di sottoporsi al test antidroga può comportare inoltre l'integrazione di un illecito, punito con l'arresto da 6 mesi ad un anno e una sanzione dai 1.500 a 6.000 euro. Controllo da parte delle forze dell'ordine. Quali diritti? La legge dà ampi poteri alle forze dell'ordine in materia di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti. Questo vuol dire che, nel caso sia in corso un'operazione di polizia, chiunque può essere fermato per un controllo. La legge consente inoltre, quando ne ricorrono i presupposti, di procedere anche alle perquisizioni personali e locali, che implicano accertamenti più invasivi rispetto alla normale ispezione, ad esempio la perquisizione a casa alla ricerca di sostanze stupefacenti nascoste in seguito ad un controllo avvenuto per strada. Solitamente l'ispezione avviene sugli effetti personali, su bagagli e mezzi di trasporto. Questo implica che possono chiedere a chi viene controllato di aprire lo zaino o di svuotare le tasche per guardarne il contenuto. È sempre consigliata la consegna spontanea delle sostanze stupefacenti e del materiale utilizzato per consumarla all'inizio del controllo, in quanto è considerata una condotta collaborativa. Le forze dell'ordine sono tenute a redigere un verbale nel caso vengano trovate sostanze stupefacenti. Nel verbale saranno riportate tutte le operazioni eseguite, ad esempio i dati personali di chi viene controllato, quantità e qualità della sostanza trovata. Chi viene fermato ha diritto a far mettere per iscritto nel verbale le proprie osservazioni. Ad esempio, sono un consumatore abituale di, e a far inserire anche l'eventuale ritrovamento di cartine, grinder e altri strumenti propri del consumo personale. È importante leggere attentamente il verbale prima di firmarlo. Chi è stato controllato ha diritto inoltre ad avere una copia. La firma del verbale non è obbligatoria, infatti è sconsigliato firmare nel caso in cui non si capisca bene il contenuto del verbale o si ritenga non corrisponda a verità. In questo caso, chi si rifiuta di firmare ha anche il diritto che sia messo a verbale la motivazione del proprio rifiuto. Nel caso di contestazione per uso personale, le comunicazioni, ad esempio la convocazione al colloquio da parte del prefetto, saranno inviate all'indirizzo di residenza, ma al momento del controllo si può richiedere, facendolo mettere a verbale, che vengano inviate ad un altro indirizzo, ad esempio quello del proprio domicilio. Se il controllo avviene mentre si è alla guida, l'eventuale ritrovamento di sostanze comporta inoltre la sospensione immediata della patente per 30 giorni.